Ho visto nascere il sole tra il castello Maniace e l'isola. Ho visto il tramonto di Siracusa. Ho visto una bella luna in cielo, il vento entrare nelle case, carezzando famiglie. Poi ti ho incontrata e solo ora posso dire: ho visto la bellezza della mia vita.